GR Europa. Il Parlamento europeo intende continuare la sua battaglia per assicurare che il bilancio dell'UE per i prossimi 7 anni sia adeguato per la ripresa economica e la creazione di posti di lavoro in tutta l'Europa. E quanto ha assicurato stamattina l'eurodeputato PDL Giovanni La Via, relatore del bilancio UE per il 2013, dopo il vertice dei capigruppo del PPE a Bruxelles. Noi abbiamo deciso di dare voce oggi alle parole appunto degli europarlamentari, cominciando da Cristiana Muscardini, vicepresidente della Commissione Commercio Internazionale. Il Parlamento europeo, ad esempio, ha votato nell'ottobre del 2010 il regolamento per il marchio d'origine dei prodotti extra UE. Il Consiglio europeo non l'ha mai poi discusso e la Commissione potrebbe ritirarlo in qualunque momento. Allora, la pari dignità tra le 3 istituzioni europee deve sancire che quando il Parlamento in seduta plenaria ha votato e approvato un provvedimento, il Consiglio e la Commissione possono avere diritto di chiedere delle modifiche, ma che la Commissione non possa ritirare ciò che il Parlamento ha già votato in prima lettura. Cristiana Muscardini al microfono di Laura Bettini, così come Salvatore Iacolino. Allora, se la Muscardini punta sul tema della dignità tra le istituzioni, Salvatore Iacolino, PDL anche lui, è vicepresidente Commissione per le Libertà Civili, si augura invece un recepimento più rapido da parte degli Stati membri delle indicazioni del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è il colegislatore insieme alle altre istituzioni, Commissione e Consiglio europeo. Certo, il passaggio ulteriore è quello di garantire che i provvedimenti assunti dal Parlamento europeo possano essere tradotti operativamente in dossier legislativi laddove occorra dagli Stati membri in tempi ragionevolmente brevi. C'è l'esigenza di restituire al cittadino la consapevolezza del ruolo crescente anche in politica economica, così come in quella monetaria del Parlamento europeo, che potrebbe pertanto assurgere sempre di più a riferimento concreto dei cittadini. Insomma, c'è questo elemento un po' paradossale, l'unica istituzione europea direttamente eletta dai cittadini, ma storicamente rischia di rappresentare un binario morto della politica, della comunicazione politica, una situazione che evidentemente va rotta. In questo senso Pino Arlacchi, anche egli eurodeputato, ha un obiettivo ancora più ambizioso. Il Parlamento europeo ha fatto passi da gigante negli ultimi 30 anni, deve diventare un vero Parlamento dell'Unione europea che fa delle leggi che vengono poi applicate in tutto il resto dell'Unione e quindi che ha una base non tanto nelle trattative tra i governi e nei trattati, ma nella volontà popolare. Quindi va cambiato il sistema di elezione, una parte sempre più larga dei parlamentari va eletta in modo sovranazionale, cioè senza un vincolo nazionale. E poi il Parlamento deve avere un potere immediato sugli altri organi dell'Unione simile a quello di un Parlamento nazionale. Qui ci vuole un governo dell'Unione Europea che applichi le leggi votate e discusse dal Parlamento. Le interviste le ritrovate su www.radio24.it, sono state realizzate da Laura Bettini. Con questo è tutto, l'appuntamento a domani. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.